Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un gap retributivo che nel privato sfiora i 10.000 euro all'anno in Friuli Venezia Giulia, con inevitabili ripercussioni sui trattamenti pensionistici e sulle prospettive di indipendenza delle donne. Focus dei sindacati sulla parità di genere alla vigilia dell'8 marzo. Sindacalista a scuola di finanza per aiutare le donne a rendersi economicamente indipendenti. Il progetto al via nella sede di Banca d'Italia. È tornata la neve in montagna, in corso abbondanti precipitazioni a Forni di Sopra, Forni a Voltri e Sappada. Piove invece sulla zona nord-est, da Tarvisias e la Nevea. A San Giorgio della Richinvelda una scuola modello, grazie ai fondi del PNRR, sarà pronta a settembre, in tempo per il nuovo anno scolastico, un'opera da 3 milioni e mezzo. Fa tappa a Gorizia il Salone della Responsabilità d'Impresa e dell'Innovazione Sociale. Tra gli esempi che spiccano, quelli che operano nei settori della moda, dell'agricoltura, della cultura. La mobilitazione di un gruppo di cittadini per il giardino di San Michele a Trieste, da mesi in stato di abbandono. Ancora buongiorno da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccono in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Anche in una regione come il Friuli Venezia Giulia, caratterizzata da un tasso di occupazione femminile pari al 62%, ovvero 10 punti in più rispetto alla media nazionale, la strada che ci separa da un'effettiva parità di genere sul mercato di lavoro è ancora lunghissima. La vigilia dell'8 marzo, fari dei sindacati puntati sulle donne a tutt'oggi discriminate nel lavoro e nelle ritribuzioni dei salari. Indietro nelle paghe, spesso con lavori part-time e penalizzate dagli stereotipi. Nel mondo del lavoro le donne faticano più degli uomini e sopportano più di loro i carichi che derivano dall'arrivo dei figli e dal lavoro di cura. La parità di genere è un obiettivo lontano anche in una regione virtuosa come il Friuli Venezia Giulia, dove a lavorare sono 6 donne su 10, il 62,1%, ben 10 punti in più rispetto alla media nazionale. Lo spiegano i sindacati CGIL, CISL e UIL, che in vista dell'8 marzo hanno fatto il punto sulla questione del gender gap tra uomini e donne. In Italia una donna su 5 è costretta ad abbandonare il lavoro a causa della maternità, in assenza di una rete di servizi di supporto sufficiente. A pesare è anche una distribuzione sbilanciata dei carichi familiari all'interno della coppia, con la donna che, per l'equilibrio tra vita e lavoro, si trova a dover scegliere molto più dell'uomo il lavoro part-time. In regione è il 36% contro il 7% degli uomini, dato che è tra i peggiori in Italia, dove la media nazionale per le donne è il 33% e per gli uomini l'8. Il risultato è una disparità, oltre che nella carriera, anche nel reddito. In regione, per una donna, il reddito medio lordo annuale è sopra i 18.000 euro, mentre per un uomo è sopra i 28.000 euro. Anche in questo caso, il dato è di poco peggiore rispetto alla media nazionale, dove l'uomo prende 27.000 euro e la donna tocca i 19.000. Una differenza che risalta ancora di più se si considera che sul piano degli studi le donne ottengono risultati ben superiori agli uomini. In Italia, quasi una donna su 4 è laureata. La media tra gli uomini scende a 1 su 6. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella sede di Banca Italia Trieste è appena cominciato il corso di educazione finanziaria per sindacaliste del Friuli Venezia Giulia, un progetto nazionale che mira a potenziare le conoscenze delle donne che lavorano e che per il loro ruolo trasmetteranno poi quanto appreso alle colleghe. Saper amministrare il denaro, una condizione necessaria per potersi dire liberi. Una delle violenze di genere più subdola è proprio quella economica. Per rinforzare le conoscenze finanziarie, Banca Italia organizza in tutta Italia un corso a cui partecipano le sindacaliste attive in diversi settori dell'economia, dalla metalmeccanica, agricoltura, trasporti, scuola, chimica, edilizia, settore legno, funzione pubblica e bancario. In Friuli Venezia Giulia al corso partecipano 100 donne da tutta la regione. Imparano tra l'altro a pianificare e quali sono gli strumenti alternativi al contante, la sicurezza informatica, come gestire al meglio il conto corrente e indebitarsi, ma con prudenza. Adriana Carbonera, UIL FVG. Parte in prossimità dell'8 marzo. È un progetto molto importante perché si cerca di dare alle donne quella conoscenza finanziaria e capacità finanziaria affinché proprio si sentano donne libere. Alessia Cisorio, della CISL, coordinatrice donne FVG. Le donne che sono qui presenti oggi sono donne attive sui luoghi di lavoro, quindi RSU, RSA, ma anche dirigenti sindacali proprio attive all'interno delle federazioni di CGIL, CISL e UIL. Daniela Duzza, segretaria CGIL FVG con delega alle politiche di genere e pari opportunità. Vuole essere uno strumento di acquisizione di competenze e conoscenze da parte delle rappresentanze sindacali da veicolare poi nei luoghi di lavoro per innalzare la consapevolezza della cultura finanziaria. Questo è uno degli strumenti che può portare le donne sulla strada dell'empowerment, dell'autonomia e dell'autodeterminazione. Il corso dura 8 ore, partecipano 50 sindacaliste oggi e domani e altrettante mercoledì e giovedì prossimo. I contenuti appresi saranno poi trasmessi alle colleghe nei luoghi di lavoro durante incontri ad hoc e assemblee sindacali. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo il consueto sguardo al tempo, il cielo coperto su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 11,5 gradi, a Pordenone 10,5, a Udine Gorizia 10, a Tarvisio 5, a Tolmezzo 3,5 gradi, a Sappada e Piancavallo 1 grado, a Forni di Sopra 0 gradi, sul Monte Zoncolan meno 1 grado, sul Monte Lussari meno 1,5 gradi, a Grado e Lignano 12 gradi. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Cielo da nuvoloso a coperto, in montagna residue precipitazioni con quota neve fino a 900-1200 metri circa, localmente a quote più basse. Nel pomeriggio sarà possibile qualche schiarita su pianura e costa e una temporanea cessazione delle precipitazioni che riprenderanno poi in serata. Dunque è tornata la neve in montagna, come da previsioni meteo. Sull'arco alpino occidentale sono in corso abbondanti precipitazioni a carattere nevoso che stanno interessando in particolare le località di Forni di Sopra, Forni a Voltri, Sappada. Qui il termometro, abbiamo già sentito, di poco sotto lo zero, la neve ha raggiunto i 30-40 centimetri in quota 10 a Fondovalle. Piove invece sulla zona a nord-est, da Tarvisio a Sellanevea, con il termometro che segna 5 gradi oltre che su pianura e costa, dove le temperature si attestano sui 15 gradi. La temperatura del mare è di 12 gradi, superiore di 3-4 gradi alla media stagionale. Ancora un focus sulle comunità energetiche rinnovabili in regione, l'ultimo si è svolto questa mattina a Udine. Le comunità energetiche, se ne parla qui in un convegno a Udine ed è presente tra i relatori Davide Di Giuseppe, che è il responsabile appunto delle comunità energetiche per il gestore servizi energetici, cioè il GSE. Insomma, come possiamo spiegare che cosa sono le comunità energetiche? Le comunità di energia rinnovabile sono sostanzialmente un insieme di soggetti, clienti finali, produttori di energia da fonti rinnovabili che si accordano, si mettono insieme con lo scopo di bilanciare il consumo di energia elettrica con proprio la produzione di energia da fonti rinnovabili, in gergo quindi per condividere l'energia. Si tratta di un sistema molto incentivato, si parla di 2 miliardi e 2 che verranno messi a disposizione tramite il vostro portale. Sì, allora l'8 aprile prossimo apriremo appunto i portali per le richieste di contributi. Contributo in conto capitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede appunto un fondo di 2,2 miliardi di euro a fondo perduto per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e un contributo fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili, e poi contributi in conto esercizio, quindi proprio sulla condivisione di energia da fonte rinnovabile. Antonio Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo a Udine per parlare di un ciclo di convegni organizzato per certificare la ripresa della coltivazione dei legumi nella nostra regione. Fagioli, piselli, ceci, lenticchie, lupine, cicerchie sono stati essenziali per l'alimentazione umana sin da sempre. Un tempo coltivati in regione, nel corso degli anni sono cominciati gradualmente a sparire. Oggi, da parte dei coltivatori, c'è un rinato interesse per la produzione dei legumi, sia per l'alto valore nutrizionale e il basso fabbisogno idrico, che per la loro capacità unica di fissare l'azoto atmosferico, lasciandolo a disposizione anche delle colture seguenti. Nonché di migliorare il riciclo del fosforo, un interesse certificato anche da un ciclo di incontri a Udine per la loro riscoperta. Cristina Micheloni, presidente regionale Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Il motivo è legato al lento ma inequivocabile cambiamento di alimentazione, di stili alimentari, per cui si sta spostando verso l'uso di proteine di origine vegetale rispetto a quelle di origine animale, e quindi gioco forza, le leguminose sono delle protagoniste. Qual è la realtà sul territorio del Friuli Venezia Giulia? Ci sono alcune decine di ettari in coltivazione per quanto riguarda il cece, la lenticchia, il fagiolo è un po' più sparso, un po' più a livello orticolo. Ci sono anche delle cose un po' particolari come gli arachidi, ma anche i fagioli a zucchi su ancora superfici limitate. Ma la cosa interessante è che in moltissimi di questi casi si arriva ad avere l'intera filiera nell'azienda agricola, ovvero si arriva al pacchetto finale vendibile al consumatore. Danno reddito? Sì, se si riesce a governare l'intera filiera, ovvero produrre, riuscire a produrre, pulire e arrivare fino al pacchetto finale, al consumatore finale, è sicuramente redditizio. Chiaramente bisognerebbe essere un po' più ambiziosi, riuscire ad avere delle filiere un pochetto più grandi che magari aggregano più produttori. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora occupiamoci dei fondi del PNRR destinati alle scuole, spostandoci a San Giorgio della Richinvelda, dove un istituto modello sarà pronto con la ripartenza del nuovo anno scolastico. È uno dei cantieri più avanzati in Italia di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, la nuova scuola primaria De Amicis di San Giorgio della Richinvelda, opera da 3.400.000 euro, inizio lavori a marzo 2023, affidati a un'impresa friulana, sarà pronta a settembre per il nuovo anno scolastico. Michele Leone è sindaco di San Giorgio della Richinvelda. Vedere una nuova scuola finanziata con i fondi PNRR in uno stato così avanzato dei lavori ci dà sicuramente una grande soddisfazione, perché sta a significare che le cose si possono fare e si possono fare anche con grinta e con entusiasmo. L'edificio, che avrà 13 classi, 3 laboratori e un'aula insegnanti, è ad alto efficientamento energetico che consentirà un risparmio stimato di 60.000 euro l'anno. Ancora Leon. Sarà una scuola con la migliore classe energetica in assoluto, a 4+, avrà degli spazi molto gentili, aule grandi, superano tutti i 45 metri quadri e avrà il ricambio d'aria forzato in ogni classe. Sarà una scuola colorata con la capacità di poter accogliere oltre 400 bimbi. All'inaugurazione è atteso il ministro dell'istruzione Valditara. San Giorgio della Richinvelda, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel cuore del centro storico di Trieste, un ampio giardino che collega la città al Colle di San Giusto, il giardino di Via San Michele, da alcuni mesi vive in uno stato di grave abbandono. I cittadini chiedono un intervento urgente prima della primavera, ormai alle porte. Voragine a terra, niente più giochi per i bambini, le mura che sorreggono le scarpate completamente aperte. Non è la giornata uggiosa a rendere il parco di San Michele di Trieste così triste, ma un impoverimento sociale e strutturale che è maturato negli ultimi mesi. Da ottobre scorso l'associazione culturale Andandes, che da 25 anni è stata cuore e anima di questo luogo, con le tantissime attività offerte, la partecipazione attiva e gratuita dei cittadini del rione, ha deciso di lasciare la collaborazione perché le manutenzioni richieste non erano all'altezza dei bisogni del giardino e gli interventi erano sempre più rari da parte del comune. Noi siamo qui nel giardino con Laura Flores, presidente e anima di questa associazione. Al comune che cosa avevate chiesto? E al comune abbiamo chiesto un patto di collaborazione, cioè un agire in comune di una maniera metodologica, di una maniera agile, per studiare, per vedere come cittadinanza attiva e istituzioni possono mantenere un luogo pubblico che aiuta a ben vivere la città. Questo giardino ha avuto un'affluenza sempre più crescente negli anni, anche per il turismo. Sì, in realtà negli ultimi 3 anni l'affluenza del turismo ha avuto un impatto fortissimo sul giardino, in quanto il calpestio e l'uso dei giochi da parte anche del turismo giovanile di tante città d'Italia che vengono a visitare la città. Ricordiamo che siamo ai piedi di San Giusto. Esattamente, siamo al piede di San Giusto, quindi questa è una tappa obbligatoria anche per i picnic, per i momenti di sosta. E quindi progettare una città per il turismo vuol dire raddoppiare gli interventi e vedere le criticità che questa nuova situazione crea. In realtà questo non siamo riusciti a farli vedere o capirci con il comune di Trieste, e quindi la non firma della concessione per l'utilizzo del manufatto all'interno del giardino, che si è fatto con la progettazione partecipata nel 2006 grazie al nostro intervento anche, e praticamente non ha funzionato la collaborazione. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo Roma e Torino fa tappa a Gorizia il Giro d'Italia del Salone della Responsabilità Sociale delle Imprese e dell'Innovazione Sociale, l'evento itinerante che ha l'obiettivo di valorizzare le esperienze concrete di imprese e territori, promuovere la cultura della sostenibilità e stimolare un'emulazione virtuosa. Il focus dell'incontro nella sede goriziana dell'Università di Udine è sulla frontiera come contraddizione, dalla competizione alla collaborazione. L'evento è patrocinato da Go2025. Il Salone della Responsabilità d'Imprese e dell'Innovazione Sociale porta in giro per l'Italia la sostenibilità, la fa conoscere e favorisce il cambiamento. Quest'anno l'evento itinerante di confronto tra imprese fa tappa in un luogo simbolo della frontiera che diventa collaborazione, Gorizia. Qui 20 anni fa è caduto l'ultimo muro europeo e fra 10 mesi, insieme a Nova Gorizia, questa sarà la capitale europea della cultura. Al centro dell'incontro, organizzato da Università degli Studi di Udine e Anima Impresa, il passaggio dalla competizione alla collaborazione. Lo spiega Rossella Sobrero, che sottolinea come le barriere spesso possono essere culturali oltre che fisiche, e il Salone cerca di creare presupposti per facilitare il confronto e superare contraddizioni. Con la sua impronta transfrontaliera e la sua anima italiana, slava e mitteleuropea, Gorizia è una città che ha saputo fare proprio delle contraddizioni il suo punto di forza. La concretezza delle idee nei casi e nei progetti di collaborazione aziendale tra italiani e sloveni, che favoriscono una crescita reciproca e sostenibile. E questo è il principio ispiratore da oltre un decennio di Anima Impresa, dice la presidente del network friulano Valeria Broggian. Gli esempi, quelli di aziende che operano nel settore della moda, in quello agricolo e in quello culturale. Il Giro d'Italia del Salone dopo Gorizia farà tappa a Teramo. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La situazione in cui sono costretti a vivere i richiedenti asilo al Silos di Trieste sta mobilitando la società civile cittadina. Per coinvolgere le autorità nazionali si è creato un comitato che ha redatto un appello al capo dello Stato, Sergio Mattarella, che sarà a Trieste in aprile per ricevere la laurea honoris causa dell'Ateneo di Trieste insieme all'ex presidente sloveno Borut Pahor. L'appello sarà illustrato alla stampa dai promotori Franco Belci, Gianfranco Carbone e Mauro Gialuz in una conferenza stampa che si terrà domani alle 11 al Circolo della Stampa, alla quale sono invitati cittadini, associazioni, movimenti e partiti che vogliono aderire all'iniziativa. Il corso di qualifica di operatore sociosanitario, OS, è un percorso che garantisce una preparazione specifica per l'assistenza alle persone in ambiente ospedaliero e a domicilio ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio alle 17 la presentazione nella sede dell'IRES in Viale Ungheria a Udine. La coordinatrice del corso, Paola Di Paoli, ci spiega quali sono le competenze che si acquisiscono durante il corso. In futuro OS andrà a occuparsi di tutto quello che riguarda la cura della persona. Sono competenze che spaziano poi dall'igiene, le azioni di mobilizzazione, la psicologia, la sociologia, la legislazione sociosanitaria, ma poi c'è tutta la parte professionalizzante che riguarda la metodologia del lavoro sociosanitario e quindi si va anche ad affrontare tutti gli elementi di geriatria, neuropsichiatria, pediatria, anche igiene alimentare, quindi poi come fare tutti gli interventi di assistenza di base, le mobilitazioni, le nozioni di primo soccorso. Si tratta di 1000 ore, di cui 450 sono ore di tirocinio. C'è tempo per candidarsi fino a venerdì 15 marzo attraverso la pagina web di IRES. Il percorso si rivolge a persone disoccupate che devono avere la residenza nel territorio regionale, devono essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e aver compiuto 18 anni di età. La frequenza ai corsi è gratuita, è obbligatoria ed è prevista anche un'indennità oraria per le ore di tirocinio pari a 3,50 euro all'ora. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Tutte le attività dei Vigili del Fuoco al centro della puntata di Buongiorno Regione di questa mattina. Sentiamo come si svolge e come si organizza il lavoro nella caserma di Trieste. Nella sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, che riceve le chiamate inoltrate dal 112, normalmente ci sono 2 Vigili del Fuoco, ma nel caso di emergenze, che sempre più spesso sono legate ad eventi climatici estremi, il presidio si raddoppia attivando anche la seconda sala operativa. Alberto Maiolo, comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste. Pensiamo che normalmente il numero di chiamate in casi eclatanti arriva a qualche centinaio, quindi contemporaneamente. Quindi ci sono delle priorità, delle selezioni che devono essere fatte. Purtroppo il clima sta cambiando e quindi ci sono sempre più fenomeni concentrati e di notevole energia. Ricordiamo l'anno passato, il 29 agosto, quando la bomba d'acqua che ha colpito Trieste ci ha impegnato notevolmente. Stiamo parlando che abbiamo fatto circa 5 volte gli interventi che facciamo quotidianamente, con un dispositivo che è andato sì al raddoppio di turno, ma che si è trovato a dover gestire in una situazione, quindi in un tempo molto limitato, svariate richieste a tutto il territorio della provincia. Quali sono gli interventi più frequenti? Trieste fa circa oltre 6.000 interventi di soccorso, il 25% sono per soccorso le persone. Molti di questi interventi sono dovuti al fatto che la persona cade, anziana, in casa, non riesce ad arrivare alla porta, ad aprire, ha una necessità di un soccorso sanitario, il vicino chiama, ecco allora che noi interveniamo per aprire e far accedere ad esempio i sanitari. Trieste, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il calcio. Partita in casa del Fiorenzuola, terz'ultimo in classifica per la Triestina, impegnata al Pavesi con calcio d'inizio alle 18.30. Mister Roberto Bordin pensa alla rimonta nella partita con Legnago, che può e deve essere un trampolino di lancio. Sabato, nella doppia rimonta, gli alabardati hanno messo il cuore, raggiungendo un pareggio meritato per quanto fatto nel primo tempo e nella seconda parte della ripresa. Oggi non ci saranno Struna per il problema fisico accusato contro il Legnago, Ballarini e Germano. Basket a 2, l'APU stasera gioca sul parquet di Latina, ultima in classifica, che però ha battuto la Pallacanestro Trieste. Questo dunque il monito che sarà il succo della sfida dei friulani, che giocheranno alle 20.30. Di una partita complicata parla il portavoce dello spogliatoio De Laurentiis. Dobbiamo evitare i blackout, ha detto, e andare a guadagnare i due punti sul loro campo. È stato giudicato inammissibile e dunque rigettato dalla federazione il ricorso presentato a sorpresa dalla Pallacanestro Trieste dopo la partita persa a Cisterna di Latina, contestando l'omologazione del campo di gioco. Colpa, come si evince dal provvedimento del giudice sportivo, di una serie di errori formali, a cominciare dal fatto di aver presentato il ricorso un'ora dopo la scadenza dei termini. Pallanuoto, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile, le orchette alabardate affronteranno in trasferta la neopromossa Cosenza Pallanuoto. Si gioca nella piscina comunale con inizio alle 14. Le orchette hanno il compito di consolidare il terzo posto in classifica. E con la pallanuoto femminile è tutto per questo giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli, Vittoria Protti e Tommaso Vinoni. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zacco, l'augurio di un buon pomeriggio. Il prossimo giornale radio alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.